24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Buongiorno italiani, popolo di debosciati. Così almeno ci hanno dipinto ieri, eh? Siamo sovrappeso e pigri. Questo l'ho letto sul giornale oggi, l'ha detto un convegno, si parlava di salute. Popolo di debosciati, cari italiani, buongiorno, eccoci qua. Siamo pronti, come al solito, con il consiglione, il consiglio del Presidente del Consiglio. Rilassatevi, anche se, anzi, non troppo, visto che siete dei pigri e dei sovrappeso. Siamo pronti ad aprire il nostro bar, dove si affollano già, come ogni mercoledì. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come ogni mercoledì, sì, se anche accendo o spengo il microfono qua, non si sente praticamente quasi nulla. La nostra Paola Saluzzi, Paola Saluzzi, buongiorno. No, la nostra era così bello, ma non correggerti, Alessandro. Ma no, sei nostra e lo sai e ti vogliamo un gran bene. Sono la vostra tifosa, ecco. Numero uno e sono una debosciata e pigra. No. In aggiunta a tutto ciò ho anche preso un gattino, anzi una gattina. Sì. E quando fa freddo il gatto ti si mette sulle ginocchia, tu non ti alzi più dal divano. Ah, vabbè, insomma, un quadro devastante dell'Italia, sì. Insomma, debosciati, sì, sì, pigri. Va bene, saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, direttore. No, in che senso? Ci ritroviamo tutti nel popolo di in sovrappeso e debosciati? Ma no, dai, no, Luca, non ci voglio credere. No. Leggermente, dai. No, assolutamente no. Oggi, visto che è una cosa cara a Paola Saluzzi, lo devo dire, è il 12-12-12, non so che cosa voglia dire, ma è un po', pare che sia una notizia, diamola. Voglio dire, intanto sono tre numeri, combinandoli bene, da giocarli almeno sulla ruota di Napoli. Cioè sono tre numeri uguali. Che vuoi giocare? Il 12, come tale portano fortuna. Ah, no, vabbè. Allora, vi voglio subito far parlare della notizia del giorno. Cioè, questo spread, non si capisce bene che cosa sia, se è importante o non è importante. Perché ieri c'è stato questo duello televisivo, prima Monti e poi Berlusconi, ma partiamo da Berlusconi prima. Ma a noi cosa importa che la differenza sia dall'1% della Germania al 6% nostro? Quello che ci importa è che i nostri tassi, certo, quelli che dobbiamo pagare per avere investimenti nel nostro debito pubblico, sono aumentati del 2%. Tutto quello che si è inventato sullo spread è un vero imbroglio. Quindi, secondo lei, è che si è usato lo spread per cercare di abbattere una maggioranza votata dagli italiani e di mandare a casa un governo facendogli perdere la maggioranza in Parlamento. L'ha chiamato anche spread a un certo punto, ma l'altra invece è Mario Monti, che era Uno Mattina sulla Rai. Sentite cosa ha raccontato di suo nipote. Era a casa nel pomeriggio e ha visto in un telegiornale che si parlava di spread e ha detto alla mamma, ma spread sono io. Perché all'asilo lo chiamano spread. No, all'asilo spread. Pensate che infanzia dura. Non so per quale ragione poi questi bambini abbiano proprio individuato in lui quello che doveva portare questo soprannome. Questo... Ma chissà perché, proprio lo ignora, Mario Monti. Luca Dini, lo ignora Mario Monti. Come mai abbiano scelto proprio il nipotino di Mario Monti per soprannominarlo spread? Ma io dico, ma uno che ci importa? Che ci importa dello spread, Berlusconi? Che succederà, Luca? Assisteremo a una campagna elettorale così, insomma, in cui ci saranno dei toni populisti come teme il Premier Monti? Beh, oddio, le premesse sono quelle. Devo dire che ci importa dello spread è un po' assurdo, anche perché io a Berlusconi chiederei, ma allora perché ti sei fatto da parte nel novembre scorso, se era una cosa irrilevante? Cioè, adesso venirci a dire che un fattore che peraltro non è affatto un'invenzione, che con una variazione, un'oscillazione cancella 12 mesi di lacrime e sangue, di sacrifici, insomma, francamente... È un po' difficile, credo. Ma io devo dire sì, non so se sopporterò una campagna elettorale del genere. Non so, Paola Saluzzi, tu dovrai invitare anche, immagino, i politici, quelli che si candideranno. Io non so se ce la faccio. Lo dico subito, forse getto la spugna prima di... Alessandro, tu non metti mai la spugna. Al primo round, getto la spugna. Perché quello che può succedere è che la Germania ci invada attraverso il Brennero, non lo so, perché qui tra poco, non potendo più invadere la Polonia per evidenti motivi, e non faccio del sarcasmo su questo, ma probabilmente passeranno il Brennero e ci invaderanno, perché se continuiamo così, spread tuo, spread mio, a insultarci e a tirarci le pallette di carta, prima o poi accade. Sarà una campagna elettorale molto dura e molto difficile. Ma io non so quanto ci creda Berlusconi a quello che dice sullo spread. Tra l'altro ha anche aggiunto ieri nell'intervista: ero una delle persone più credibili all'estero quando ero capo di governo. Ma per carità, è giusto che la pensi come vuole, però ci attende questo, Paola, tu ti rendi conto? Cioè ci attende questo non dal punto di vista generale. Posso dirti una cosa? Sì. E la dico a te, al direttore, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io da due giorni a questa parte ho notato in taluni ospiti un cambio di marcia, cioè è partita subito, e questo è normale che sia così, una maggiore aggressività. Da parte di stesse persone che fino alla settimana scorsa erano decisamente meno aggressive. È la campagna elettorale. Ecco, questo è il dato più negativo, diciamo così, perché non siamo nella nostra epoca d'oro, siamo in un'epoca in cui arriviamo davvero a Natale e Capodanno facendo il conto degli spiccioli, e quindi la politica deve tenere conto anche di questo. Non voglio fare io la populista, ma voglio dire, deve tenere conto anche di questo, un po'. Please relax, il consiglione. A proposito di spiccioli, visto che l'hai citato, sentite Renato Brunetta, l'ex ministro Brunetta, che tra l'altro è il vero artefice di tutta questa campagna di Berlusconi, perché il suo libro ultimo si intitola proprio così, Il grande imbroglio. Infatti oggi sul Corriere gongolava tutto, ha usato proprio la mia espressione, il grande imbroglio Berlusconi, proprio il titolo del mio libro. Ieri a TGCom 24 Brunetta ha detto che non hai soldi per pagare l'IMU. Io le posso dare una notizia, sto pagando la seconda rata dell'IMU, i soldi non li ho, li ho dovuti chiedere a prestito in banca per la seconda, e come me penso che sono un medio reddito, un medio alto reddito, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Monti, certo, su questo ha sbagliato e su questo... Sicuramente molti, non so direttore, sicuramente molti italiani si troveranno nella condizione di chiedere soldi a una banca. Dobbiamo credere, sì, insomma, se la dà come una notizia che anche Brunetta abbia dovuto chiedere i soldi a una banca per pagare la seconda rata dell'IMU. Beh, visto quello che si è fatto a Ravello, può darsi. Detto questo, è proprio, non so se mi disturba più il cinismo o la mancanza di rispetto. Addirittura, ma effettivamente, cioè, anch'io ho notato quello che diceva Paola Saluzzi, cioè negli ultimi due giorni ho visto per esempio un Ignazio La Russa che è tornato, era da Lilli Gruber, era combattivissimo, litigava con tutti, cioè coi toni. Perché non riusciamo a mantenere dei toni, a parlare di delle cose da fare, delle riforme da fare? Mario Monti l'ha detto, temo questi populismi. Sarà davvero così questa campagna elettorale? Cioè, dobbiamo davvero aspettarci tutto questo, caro Luca? Aspettarci ancora le solite urla, le solite questioni, le solite risse, telerisse? Sicuramente sì, sì, purtroppo. Quello che io mi chiedo è se per una volta gli italiani poi nel segreto dell'urna terranno conto di questa, di questa cosa che non piace a te, ma francamente credo che non piace quasi a nessuno. Allora mi chiedo perché bisogna continuare a supportarlo. Allora facciamo un piccolo quiz pronostico, sapete che ogni tanto. Mario Monti che fa? Caro Luca Dini, che fa Mario Monti? Si candida, poi è una parola sbagliata perché lui, come ha detto, non si deve candidare a nulla, è già senatore, ma accetterà di essere indicato a premier da questa formazione centrista, per cui anche Montezemolo ha detto vorremmo indicarlo come nostro premier? Io non sono bravo nelle previsioni, qualcosa mi dice di no, credo che si metterà a disposizione in altro modo, quello credo di sì, credo che si metterà a servizio. A servizio. Non lo vedo come candidato di una formazione politica vera e propria. Paola Saluzzi, che farà Mario Monti? Sono tentata per essere, da una buona tentazione, volentieri d'accordo con il direttore Luca Dini, anche se potrebbero esserci... non dico colpi di scena perché non lo sarebbe, ma potrebbero esserci delle novità da qui a breve, quindi probabilmente farà qualcosa di politico, ecco. Io spariglio, secondo me accetta, fa il candidato premier, scende in campo Montezemolo. Rischiando molto così, perché è ovvio sì. Che si rischia di più. Diciamo che si dà una patente di politico fatto e finito, cosa che però forse un pochino già è. O no? Per esempio, direttore, il fatto di aver accettato, di aver detto mi dimetto e non farsi tenere sulla graticola per un mese, in teoria un tecnico avrebbe dovuto dire vabbè, ma noi facciamo il nostro lavoro tecnico fino alla fine. Non è stata una mossa politica, prettamente da politico? Sì, assolutamente in controtendenza in un paese dove i politici queste cose non le fanno mai. Quindi direi un politico vero. Un politico vero, no? Infatti si è comportato così. Intanto vi devo aggiornare su una cosa dai giornali di oggi. Anche nella regione Piemonte pare, bisogna sempre usare il condizionale in questi casi, potrebbero avere trovato dei Francofiorito. Ci sono 4 consiglieri nel mirino, accusati di peculato, avrebbero usato soldi nostri, anche vostri, caro Lucarini e cara Paola Saluzzi, per comprarsi una sega circolare. No. Sì. È utile, no, vabbè, un tosa erba, no. Poi anche ci sono anche qualcuno è stato beccato anche in coda alla cassa del bagno turco asciugamano, hanno dato in vita e carta di credito della regione. E poi ci sono partite della Juventus, ricariche telefoniche, spettacoli, biglietti del treno, supermercati. Ma sì, il taglia erba, vasi. Ma la sega circolare, ma che caspita! Ma almeno un orologio d'oro! Invece sì, Andrea Stara accusato di taglia erba e sega circolare. Una volta vidi per strada il pentathlon del boscaiolo. Giuro, era una manifestazione, ero vicino, non ma so come dove, passi le tue giornate, il pentathlon del boscaiolo, ecco. Ma come passi le tue giornate? Quali sono le 5 specialità del pentathlon del boscaiolo? Adesso ce le devi dire. Uno starà a spaccare con l'accetta un paio di... Poi dai, quali e sono poi... le specialità? Poi presumo anche il tosa erba, non lo so, eri lì. Ha un giardinetto davanti casa e il bello è che io ridevo piegato in due, avevo anche fotografato questo cartello, perché devi pensare che fra una prova e l'altra bisogna correre, devi correre per raggiungere l'obiettivo, insomma delle cose terribili. Si tiene in forma. Il lancio della sega circolare. Può essere. Si tiene in forma il boscaiolo, mica come il popolo sovrappeso di debosciati. Come siamo noi. Infatti andiamo ad ascoltare il traffico che è meglio. 24 mattino. Monti, rigor mortis. Sono affinché Monti continui. Adesso ci ha tolto, con la speranza che l'economia si riprenda e ci restituisca tutti i sacrifici che abbiamo finora fatto. Deve continuare. Grazie di esistere in mezzo a questo pantano. Ciao Milan, il tuo ospite sta dicendo che lui pensa che tutti si ricordino come eravamo un anno fa. Io so che un anno fa qualche lira in più ce l'avevo, l'IMU non la dovevo ancora pagare. Ma l'intercetto ha sbagliato su una cosa, a dire che Berlusconi ha rotto il cazzo. Tutti i politici hanno rotto il cazzo. Alessandro, oggi è 10 dicembre, ieri ci sono stati altri 2 femminicidi. Basta questi femminicidi. Carino il Papa che dice che bisogna vivere in modo essenziale come sull'esempio del Giovanni Battista, proprio loro che in Vaticano vivono così in modo essenziale. Caro Milan, sono Lorenzo, volevo dire che la Costituzione afferma che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma il primo a non rispettare questa regola è Monti e il suo governo, che il lavoro in Italia lo stanno togliendo. Ciao! Oggi mi sono imbattuto nell'arroganza stradale di un'auto blu e se penso che la mia IMU pagherà anche la benzina di quel maiale, mi auguro che venga soppressa e non soltanto l'IMU. Messaggio per Radio 24. Aumentato lo stipendio Alessandro Milan, è fantastico, io ascolto la radio solo per lui, ciao! Brava! Bravissima! Questa siamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. Bravo. Fate un applauso a questa ultima ascoltatrice. Clap, clap, clap, clap. No, adesso la tagliamo, anzi facciamo subito un partito per triplicarmi lo stipendio. Questo ma perché non quadruplicare? Ma su, ma teniamo i numeri pari. Tanto a te la solita percentuale, Paola, arriverà. Certo, anche al direttore, sì, Luca Dini, se vuoi. Dobbiamo pagare l'IMU. Non ho IMU da pagare, ma va benissimo, anche un raddoppio dello stipendio. Triplichiamolo, quadruplichiamo, va benissimo. Grazie ascoltatrice, manderò ovviamente a tutti i vertici del gruppo del Sole 24 Ore questa segreteria, e la manderemo tutti i giorni, 5 volte al giorno. No vabbè, allora io devo dire una cosa: voi di Vanity Fair avete intervistato una Berlusconi, ma una che in genere è sempre un po' nell'ombra, è la prima volta che la vedo, Luna Berlusconi, che poi sarebbe la figlia di Paolo Berlusconi, no? Esatto. Ma che vuol dire quando dice a volte ho paura di dire chi sono e preferisco cambiare cognome? E perché? Ma sai, è un po' come lo spread, no? Il nipotino di Monti. Non vuole essere, perché non vuole essere identificata come una Berlusconi addirittura? No, è una cosa che lei, devo dire, ha detto più volte. Forse essendo anche del ramo laterale, ha parlato più volte del fatto comunque della pesantezza di tutto ciò che viene attribuito a chi si chiama così. Obiettivamente nel bene e nel male è un cognome, certo. È un cognome pesante, difficile anche da portare, bene, direi. Certo. Ci sono anche vantaggi a chiamarsi Berlusconi. No, ci sono dei vantaggi, sì, effettivamente, però effettivamente ci sono anche degli svantaggi. Anche una punzecchiatura a Veronica Lario ha lanciato. Leggo nell'inter, cioè, che vuol dire? Che non vuole una famiglia, vuole le famiglie allargate, ma non troppo? Veronica Lario, chissà come sono i rapporti. Beh, era una frecciatina per dire, diciamo, chi ha tradito la consegna del silenzio familiare, dell'armonia. Comunque c'è. È evidente che dietro le affermazioni di armonia familiare ci sono delle tensioni, ci sono state negli anni delle tensioni molto forti. Le uscite di Veronica Lario sono state estremamente audaci, coraggiose, insomma. No, certo. Comunque Luna Berlusconi oggi, per conoscere un'altra Berlusconi. Io vi voglio fare conoscere invece un nostro grande amico Kim Jong-il. Ha parlato ieri Kim Jong-il, e infatti oggi la Corea del Nord, notizia di poco fa, ha lanciato un missile. No, questa è vera. Cosa ridi? È vera, la Corea del Nord ha lanciato un missile. Kim Jong-il ieri ha parlato di democrazia, ha detto non rompetemi i coglioni con la democrazia. Chi non vuole la democrazia se ne vada fuori dalle palle, scusate per il tono, ma queste sono quello che ho detto. Non abbiamo speso un euro, tutto a costo zero, e chi dice che non c'è stata democrazia perché i voti sono stati pochi, io faccio una domanda: di 1000 parlamentari oggi in Parlamento, quanti voti hanno preso ognuno di questi? Chi ha deciso di quella gente lì? 5 segretari di partito. Non venite a rompermi i coglioni a me sulla democrazia. E poi ha detto chi vuole se ne vada via. Allora, Luca Dini, io dirò una cosa scomoda: secondo me fa bene. Cioè, fa bene nel senso che, essendo Kim Jong-il, o governa così il suo movimento, oppure gli sfugge di mano, o no? Beh, sì, e poi assolutamente c'è del metodo in questa follia. Cioè, è proprio la sua chiave, non può essere diverso. È iniziato tutto così, procede così. E infatti, solo che adesso si stanno un po' arrabbiando qualcuno. Non so, Paola, è così. È la sua democrazia. Infatti. È la sua democrazia. Lui la propone senza peli sulle lingue, dicendo: questo è il mio giardino, ci volete stare, si fa così. Non ci volete stare, si fa colà. No, infatti ha detto: volete parlare di democrazia? Chi non gli piace la mia democrazia, mica siete obbligati a stare nel movimento, andatevene fuori. E poi ha detto: e se ne andranno via. E questa è una minaccia mia, ma mica male. E quando gli è cresciuto il canino, che io mi sono preoccupata. E lì poi ha schiacciato il pulsante, oggi la Corea del Nord, pam! È partito. Volevo dire una cosa, Alessandro, sì, complimenti per questa segreteria telefonica che avete attivato. Vabbè. Perché oltre ovviamente all'ascoltatrice, però è molto intrigante, molto bella. Sì, ma facciamo sentire il meglio, perché dovessi sentire quello che ci lasciano. Segreteria non... Un DVD. Vi ringrazio, vi devo salutare. Paola Saluzzi e Luca Dini, trovate il numero di Vanity Fair in edicola, c'è Fabri Fibra. Uno dei miei idoli canori, Fabri Fibra, in copertina. E allora ci sentiamo dopo il GR delle 7.

una moglie, Stefania Ricciardi, dirigente nello stesso ministero, una nipote, Monica Ricciardi, anche lei al ministero, una figlia, Benedetta, il suo fidanzato, Ludovico, da piazzare dove capitava, un ingordo spicciafaccende, Michele Mariani, assistente amministrativo, e due amanti trentottenni, mica una, due, Amelia Puccino da Grazzanise e la polacca Isabella Malgorzata Krupa, la prima gratificata con consulenze del ministero, la seconda con un'assunzione in una delle società vincitrici degli appalti che il centurione pilotava. E nelle intercettazioni si lamentava anche perché diceva: la mozzarella che mi hai mandato faceva schifo. Questo lo spaccato del ministero, il ministero della corruzione, così titola il Fatto Quotidiano anche a pagina 9, ma l'articolo che ho letto prima era di Carlo Bonini su Repubblica a pagina 17. Trema il mondo del calcio e dello spettacolo per le memorie della pornostar Lea Di Leo, che ha minacciato in un libro di scrivere tutti i nomi dei suoi frequentatori. Le memorie della pornostar diventano arma di ricatto. In aula, a Marsala, perché c'è una causa per pubblicare questo libro, sfilano calciatori e attori. Ragazzi, ci sono delle foto. Toni, centravanti della Fiorentina, Borriello del Genoa, Massimo Ambrosini del Milan, il giornalista Amedeo Goria della Rai, l'attore Branciamore, alcuni hanno anche smentito, Grignani cantautore, Fabri Fibra cantante, addirittura il nome di un politico, racconta Alessandra Ziniti, è stato fatto da questa pornostar, vale a dire l'ex vice ministro dell'economia Mario Baldassarri come frequentatore di suo. Ovviamente smentiranno, ma dovranno pare sfilare in tribunale per dire i loro rapporti con questa pornostar. Trovate su Repubblica il giornale radio. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qua e con noi c'è, e lo voglio salutare, l'avvocato di Francesco Schettino. L'avvocato è Rosario Dorazio, buongiorno avvocato. Buongiorno. Lei assiste il comandante per la causa civile, quindi non c'entra tutta la questione penale e processo, ma per la causa civile, perché il comandante, lo ricordate, il comandante è diventato più celebre forse al mondo della Costa Concordia, che il 13 gennaio purtroppo ebbe questo grave incidente con 32 morti, è stato licenziato dalla Costa. Credo il 19 ottobre gli è arrivato il provvedimento, avvocato. 19 luglio, mi perdoni. Ma perché la Costa l'ha licenziato? Cioè, cosa gli contesta? Una condotta sbagliata? No, guardi, i punti sono, diciamo, cristallizzati, nel senso, un termine nostro tecnico, una volta che il licenziamento viene intimato, i punti sono solo ed esclusivamente quelli presenti nella lettera di licenziamento e sostanzialmente sono il naufragio, l'abbandono, diciamo, della nave, sì, il ritardo con cui avrebbe dichiarato l'abbandono nave e le pretese false o addirittura, cioè, reticenti o false dichiarazioni fatte ad alcuni organi della capitaneria. E perché il licenziamento sono questi? Sono questi. Beh, sono accuse molto gravi. Sono le accuse che tutto il mondo ha fatto al comandante Schettino, lei lo sa, avvocato, e che voi contestate perché? Cioè, dite che sono falsi questi comportamenti? Guardi, il merito è, diciamo, ancora relegato al giudizio. Le peculiarità di questa vicenda, se posso, sì, diciamo, suggerire alcuni spunti che attualmente potremmo trattare, io del merito non vorrei entrare ancora proprio perché il giudizio è in corso, però la vera diciamo, peculiarità di questa fattispecie è che è una delle primissime applicazioni in Italia del rito Fornero. Sì, quindi cioè la Costa è andata al giudice del lavoro per vedere applicato il rito Fornero, che abbrevia i tempi, no? Diciamo. Guardi, ci sono due cose da sottolineare. Questo, diciamo, è stato l'oggetto della prima udienza poi a Genova, di carattere squisitamente tecnico, e è quello che Costa intanto ha atteso la Fornero, nel senso che rispetto ai fatti del gennaio 2013 ha licenziato il comandante giusto, diciamo, il primo giorno utile proprio in vigore per la riforma, cioè proprio entrata la riforma Fornero e la Costa pam, proprio il primo immediatamente giorno. Sì, poi l'altra peculiarità è che diciamo questa volta si inverte un po' il normale gioco delle parti, nel senso che è il datore che ha attivato la procedura nei confronti del comandante. Sì. E anche questa cosa, lo sottolineavo anche ai suoi colleghi in precedenza, quando c'è stata l'udienza, è un aspetto abbastanza normale, o meglio lo era prima della riforma Fornero, cioè il datore poteva attivarsi in prima persona per cercare di far dichiarare la legittimità del licenziamento. Si giustificava questa cosa per non sottoporlo all'alea di un giudizio che poteva durare, intanto il lavoratore prima della riforma Fornero poteva aspettare 5 anni prima di attivarsi. Ah, traducevo l'alea. Sarebbe durato anni e anni, e quindi il datore sarebbe rimasto esposto a un risarcimento danni notevole. Sì. Il discorso è che oggi la Fornero dà dei termini molto più stretti. No, ma infatti. Ma ed è questo che voi contestate. Però non voglio entrare in questioni tecniche, perché poi la vedete. Voi contestate l'applicazione del rito Fornero. Noi contestiamo che il datore possa utilizzare il rito Fornero per l'accertamento negativo dei licenziamenti. Ma è vero che lei ha detto questa frase: la riforma Fornero, il rito Fornero è un naufragio della giustizia? Guardi, il discorso è questo, è sorta una discussione tecnica molto bella, se posso dirlo, in aula, e ad un preciso riferimento del collega di controparte, l'avvocato Paroletti, che ha definito la riforma Fornero una riforma del Kaiser, devo dire la verità che questa è stata una sorta di piccola polemica del Sole del secolo XIX, che ha ritenuto che io avessi commesso una gaffa nel affermare che siamo tutti sulla stessa barca. Lei l'ha detto, siamo tutti sulla stessa barca. Ma guardi, in realtà avevo fatto una sorta di, se mi è concesso, anche elegante parallelismo, nel senso che dopo la riforma del Kaiser avevo detto: oggi, per la verità, visto che non affrontiamo la questione tecnica del naufragio della Concordia, forse, visto che stiamo discutendo delle regole del gioco, stiamo parlando del naufragio della giustizia, perché questa riforma Fornero, e questo potrebbe essere uno spunto interessante di discussione, proprio forse col caso eclatante del naufragio della Concordia, rende evidenti tutte le pecche di questa riforma. Sì, però capisce che parallelismo elegante, ma lì un naufragio c'è stato veramente. No, il problema non è questo. Il problema è che noi stavamo solo discutendo sulle regole tecniche. No, ho capito, sì, ma dire il naufragio della giustizia quando si... Ma dopo la riforma del Kaiser credo che... Ci stava. Le dico sinceramente che se questa riforma è nata per abbreviare i termini, oggi noi proprio con la procedura in corso del comandante Schettino ci troviamo ad aver triplicato i giudizi, perché forse questo è l'aspetto ancora più particolare della vicenda. Oggi, se posso riassumere la situazione di fatto, noi ci troviamo di contro ad un primo ricorso depositato da Costa Crociere a Genova, che ha avuto la prima udienza il 5 dicembre e vedrà la soluzione, almeno sulla questione tecnica da me eccepita, cioè la inapplicabilità del rito, vedrà la soluzione il 9 gennaio. Contemporaneamente però il 3 gennaio c'è il mio ricorso autonomo, sempre basato sulla riforma Fornero, in base al quale cercherò di accertare il dato opposto. Un disastro, insomma, come succede nella giustizia, un disastro nel senso vista da me, da cittadino. Da questo punto di vista mi chiedevo, il problema è, valeva la pena toccare un rito che onestamente funzionava, un rito in cui il caso urgente veniva trattato con ricorso cautelare in base all'articolo 700 che sulla oralità del rito devo dire. Ma questo non entriamo troppo, ma si pronunceranno i giudici. Senta, ma lei lo sa che in Italia la sensazione di tutti un po' è: tanto non si licenzia nessuno in Italia, sebbene sia accusato di cose gravissime, per carità, ci sarà il processo eccetera. Lei confida che il comandante Schettino venga integrato? Io credo che possiamo capovolgere il discorso oggi sempre grazie alla benedetta fra virgolette riforma Fornero, perché oggi, se per esempio, le faccio solo questo esempio, in un licenziamento per motivi economici, quindi dichiaratamente economici, anche se pretestuoso, alla fine comporterà che il lavoratore al lavoro non torna e al limite prenderà un risarcimento del danno. Quindi lei punta a questo: potrebbe ottenere un risarcimento? Che lui non è stato licenziato per motivi economici. Le rispondevo sul punto che oggi forse si licenzia, come, nel senso che questa riforma dà la possibilità al... Questo sì. No, ma mi dica tecnicamente come potrà finire? Potrà finire anche con la reintegra, cioè potrebbe essere anche reintegrato il comandante Schettino? Teoricamente, applicando le regole, sì. potrebbe essere reintegrato. Però lei se lo immagina il comandante Schettino reintegrato che nuovamente fa il comandante di una nave? Ma cioè, guardi, io non devo guardare al caso con colore o diciamo del prestato dai media. Io ho un caso di licenziamento che va trattato con le regole del gioco, punto. Cioè se vado a pormi problemi ulteriori non farei il mio lavoro in maniera... Cioè lei non sì, chiaro, lei dice no, io me la pongo dal punto di vista del codice delle procedure, non è che no, mi devo stare... devo proprio guardare, ma così come qualsiasi licenziamento alla mia cognizione, devo valutare in base alle regole del gioco e insomma procedere. E vedere se è giusto o sbagliato. Mm. Senta, lei sa che, però glielo chiedo come parere, visto che conoscerà il comandante Schettino, per molti viene associato anche in frasi hai fatto lo schettino, quel politico è uno schettino, è il sinonimo di codardia, almeno questo è entrato un po' nella vulgata italiana. Lei come giudica questo? Io sono certo che nessun atto di codardia c'è stato da parte del comandante Schettino. Le faccio anche un esempio molto concreto. Quello che si tende a, diciamo, i media ovviamente hanno colorato di tutto di più e veramente la pressione che subisce il mio assistito è, se l'immaginerà, notevolissima, no? Quotidianamente da gennaio è sottoposto a una gogna mediatica assurda. Problema è che però, ve le faccio un esempio... Però perché dice gogna mediatica, avvocato? Cioè lì perché, guardi, le accuse sono molto gravi di aver abbandonato la nave... Però le faccio un esempio molto concreto e lampante. No, andiamo un attimo nel merito di una delle accuse che gli si... Sì, l'abbandono nave. Muovono. Ecco, parliamo un attimo, no, anche per esempio, del ancora in maniera più lampante, visto che cerco di rendere, diciamo, meno tecnico il linguaggio, c'è anche il discorso in base al quale, per esempio, è stato dichiarato, cioè che uno dei motivi di licenziamento è il preteso ritardo con cui ha dichiarato l'abbandono nave. Sì. Ora, su questo pure si è ricamato molto, però, insomma, da tecnico, quindi utilizzando il codice della navigazione, io le dico che, per esempio, proprio su questo punto, l'articolo 303 dice il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo aver esperito senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla. Vabbè. Però l'abbandonata non per ultimo, ecco, questo è... Ma anche questo è da vedere, perché poi mi chiedo, l'abbandono nave è una situazione dinamica, statica. Voglio dire, io dalle telefonate, adesso non entriamo nel mezzo, però giusto... commentandola alla luce dell'aspetto mediatico, sì. Io so che, per esempio, so perché è pubblicato su tutti i siti internet ed è notorio, c'è una prima telefonata, per esempio, del comandante Manna della Capitaneria Centrale di Roma, che per la verità esordisce in una maniera molto precisa, dice io sono un uomo pratico, lei è un uomo pratico, si trova sulla lancia, perché poi alla fine ci troviamo intanto con una nave che si è inclinata a 85 gradi, quasi 90, per cui sfido chiunque a rimanerci a bordo se non appeso al lampadario, detto proprio molto volgarmente, e ci troviamo davanti a una situazione in base alla quale il comandante sta effettuando con la lancia una sorta di servizio di tender e quindi di salvataggio, quindi io mi chiedo, l'abbandono nave è un discorso statico, cioè era meglio lasciarlo. No, ma tutte questioni che poi verranno risolte, però io torno alla questione, cioè che viene associato, adesso mi scrivono anche via sms, anche in Argentina, cioè viene associato in tutto il mondo come emblema della mancanza di coraggio di colui che si è tirato indietro, di colui che è scappato di fronte alle difficoltà. Sento clamorosamente, poi adesso poi i fatti, diciamo, saranno sviscerati nel procedimento e si vedrà. Si vedrà. Ma onestamente credo, insomma, anche conoscendolo, io sono proprio certo che nessun atto di codardia. Lei comunque in punta di diritto e in base alle conoscenze che ha delle procedure è convinto che alla fine questo licenziamento sia illegittimo e che ci debba essere una reintegra, il comandante. Sicuramente la nostra teoria, che poi abbia delle certezze sugli esiti, sarei presuntuoso e poco corretto, insomma, è una causa. Cerco veramente, mi sforzo di vederla come una delle qualsiasi cause, per cui anche se mi capita Salumeri nella Salumeri con tre dipendenti, credo di la cosa più seria sia di non comportarti da nulla. Questo sì, però lei sa che non è una causa come le altre, cioè anche sicuramente non lo è. Infatti, difendere Schettino già la pone in un atto d'accusa da parte, sbagliando da parte delle persone, come se Schettino non avesse diritto a un avvocato. Questo era il discorso che io facevo a Monti. Io credo che comunque, intanto dimentichiamo un po' la Costituzione, che fino alla condanna definitiva, credo che nessuno possa essere ritenuto colpevole di qualcosa, sono dei canoni, per me sono dei paletti, insomma, stabili, no? E poi il discorso è che credo che come qualsiasi lavoratore italiano, cioè tutto il caos mediatico che è stato dedicato al licenziamento sia comunque ingiusto e fuori luogo, perché il diritto di difesa credo che vada garantito. Va per tutto, ma per carità, per carità. Intanto la ringrazio, avvocato, per essere stato con noi. Seguiremo questa causa, la richiameremo. No, io allora, ringrazio lei. Grazie all'avvocato Rosario Dorazio, che è l'avvocato che segue la causa civile, a causa di lavoro di Schettino, il comandante licenziato alla Costa Concordia. Noi, dopo la pubblicità del medio, parleremo di prostituzione. Se avete visto i giornali di recente, c'è una campagna che viene portata avanti da una transessuale molto famosa in Italia, Efe Ball, che ha comprato alcune pagine di pubblicità, ha sponsorizzato anche una linea d'abbigliamento con questo slogan certamente molto molto forte: l'Italia va a puttane, fateci pagare le tasse. Ne parliamo tra poco. 800 24 0024, anche con il vostro contributo, far pagare le tasse alle prostitute, a chi si prostituisce. 24 mattino. Eccoci qua allora, alle 8:36 minuti. Allora, mi ha colpito qualche giorno fa, sfogliando nello specifico Repubblica, trovare una mezza paginata di pubblicità di una marca d'abbigliamento, il cui slogan è questo: l'Italia va a puttane, fateci pagare le tasse. Testimonial di questo slogan è una transessuale che da anni è in Italia, anche se ha origini dalla Turchia, e che da un po' di mesi si batte per questa campagna, vale a dire pagare le tasse. Si tratta di Efe Ball, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. È uscito tra l'altro anche di recente un libro, lei ha comprato anche di recente una pagina sul Corriere della Sera, a dire: esatto, ho questo sogno, voglio pagare le tasse, che vuol dire anche rendere questo lavoro come un lavoro riconosciuto, legalizzato, eccetera. Esatto. Saluto anche, mi faccio salutare la senatrice Emanuela Baio Dossi, buongiorno e benvenuta senatrice per il terzo. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Eccoci qua, che lo diciamo subito, Efe Ball è nettamente contraria a questo tipo di posizione. Allora Efe Ball, perché pagare le tasse? Perché anche questo slogan, che sicuramente colpisce molto, l'Italia va a puttane, fateci pagare le tasse? Allora, quello slogan è venuto perché loro, il proprietario di Piazza Italia, mi aveva visto con l'altra pubblicità che avevo acquistato io sul Corriere il 26 settembre, perché tengo l'Italia che soffre oggi, l'Italia che piange oggi. Siamo soltanto noi, credo, che non paghiamo, non riusciamo a pagare le tasse perché non c'è nessun riconoscimento al nostro lavoro. Io non che voglio fare questo lavoro per tutta la mia vita, vorrei anche io avere una vita normale, un lavoro dignitoso, ovviamente come tutti, ma visto che per ora sto facendo, mi chiedo come mai non c'è nessun decreto, non c'è nessuna legge, non c'è nessuna neanche preparazione, un riconoscimento riguardo chi lavora come me. Quindi ho lavorato in agosto, ho sempre avuto il sogno di poter avere un spazio pubblicitario sul Corriere, li ho chiamato, è stato un po' difficile per convincerli, devo essere sincera. Perché non è che basta pagare, era una pubblicità, come dire, un po' scomoda. Sì, ecco, diciamo. Allora, lo slogan ho trovato io, ovvio che non è soltanto basta pagare tasse possono pagare tutti, il problema forse il pensione, il problema forse il riconoscimento, il problema forse aiuti sociali, poter chiedere un prestito, poter chiedere un mutuo per un appartamento, anche noi se possiamo un giorno riusciremo a fare questa cosa qua, sia tanto sia poco di poter ricevere qualche pensione, però ovviamente noi non possiamo lavorare 40-42 anni. Ah, questo è un punto interessante. Questo è il nodo che io non riesco a risolvere, non riesco a aprire. Perché pagare le tasse, ci possono veramente far pagare le tasse. Ho anche proposto, settimana prossima uscirà un nuovo articolo sul giornale, sulla rivista F di Caire Editori, lì ho detto basta avere una carta ricaricabile, andare al bancomat invece di ricaricare il telefonino, il canone, quelle che sia, avere un'altra opzione per chi lavora come me e come tanti altri, che dire io pago il mio canone per questo mese di 500-1000 euro, quelle che sia, e per rivolgere questo lavoro. Questo ovviamente è un'iniziativa, tanti mi diranno ma non è possibile, ma non è così, tutti i leggi in Italia e nel mondo con il tempo sono stati cambiati, sono stati modernizzati, stati, quindi si può vorrebbe anche così, questo. Però, e poi con il tempo si può cambiare, però il problema, ripeto, il nodo, il pensione, il riconoscimento, un, come si può dire, io pago le tasse, in cambio cosa ricevo? Beh, è molto interessante questo punto, cioè lei dice non solo pagare le tasse, che potrebbe essere un'entrata per lo Stato, ma anche per ottenere in cambio, come tutti i cittadini, per il suo lavoro, servizi sociali, poter accedere a mutui, a prestiti e avere la pensione un domani. Perché la pensione credo che è la cosa ancora più difficile, già se credo tanti altri come me che lavorano, se possiamo avere almeno riconoscimento, almeno un po' di aiuti sociali, almeno come si può dire chiedere un prestito, ripeto, o un mutuo o un aiuto da qualche punto di vista dallo Stato, già sarebbe secondo me un sogno. Io nella mia vita ora come ora compro tutto contanti, lei può immaginare che con gli ultimi decreti che non si può spendere più di 1.000 euro perché sei registrato e infatti non puoi subito io, considerato infatti, un evasore fiscale, immagino. Io sì, ho ricevuto dall'Agenzia dell'Entrata un mese fa una raccomandata dicendo che stanno indagando nei miei conti correnti. Allora non ho ricevuto un complimento perché ho dovuto pagare in circa 4.000 euro per una pubblicità sul Corriere invece di andare a una vacanza, invece di comprarmi un altro cappotto e un paio di altre scarpe, ma ho ricevuto una lettera che mi critica, che mi farà certo, perché adesso vogliono fare le pulci a capire come fa a guadagnare tutti quei soldi. Non voglio pagare le multe, voglio, se pago le multe adesso vuol dire che ogni 4 anni riceverò una lettera dall'Agenzia delle Entrate finché faccio questa visita e mi multeranno. Io non sono un evasore fiscale, anzi ho fatto molto di più in Italia da una transessuale umile, da una transessuale che si fa questo lavoro, se posso anche definire un po' schifoso, un po' umiliante, ho acquistato un spazio pubblicitario. Convincendo le persone che lavorano al Corriere, che tu puoi immaginare di me, Corriere è il giornale più letto d'Italia, soprattutto di Lombardia, loro hanno accettato, sono stati molto gentili perché lo slogan era umile, unica nel suo genere. Sogno in di pagare Italia le tasse, in cui abbiamo più di 100 indagati per corruzione in Parlamento, in un'Italia in cui grandi aziende come Fiat, come tanti altri, vogliono portare il loro patrimonio fuori dall'Italia per non pagare le tasse, perché il lavoratore costano di meno. Io da una persona che è nata in Turchia, che sono qui da anni, che da 7 anni sono italiana, dice, ho fatto un'iniziativa voglio pagare unica le tasse. Nel suo no, ma infatti è interessante. Si fermi, mi faccia ascoltare allora la senatrice Baio Dossi, che pensa, senatrice della posizione di Efebal, che dice: io sogno di poter pagare le tasse anche per essere regolare come tutti, avere un lavoro, avere una pensione, poter accedere a un mutuo, poter accedere a un credito, ai servizi sociali, eccetera, invece di dovermi ricevere le lettere dell'Agenzia delle Entrate. Senatrice. Ma guardi, rispetto, saluto tutti e saluto anche la signora Esteban, però mi sembrano molto, come possiamo dire, molto strane le sue affermazioni. Allora, io ritengo che la prostituzione non sia e non debba essere un lavoro. Questo è la prima affermazione. E cosa deve essere, secondo lei? Ne deriva che non essendo un lavoro, lo Stato perché deve fare pagare le tasse? Se fa pagare le tasse, riconosce a quella, alla vendita del corpo umano, che dal punto di vista sia etico sia economico il peggio che ci possa essere, proprio il peggio, la peggior cosa. Mi sembrava che anche la signora Esteban definisse questa sua scelta, ha usato delle espressioni proprio gentili, schifoso, eccetera. Ma perché lei come la aspetti, allora le dico aspetti, l'ho ascoltata, io l'ho ascoltata, adesso lei lascia parlare me. Allora, è chiaro che quindi non può derivare il pagamento delle tasse, perché quello altrimenti verrebbe riconosciuto come un lavoro e soprattutto lo Stato lo presenterebbe come un modello. Ma che cos'è? Allora, le chiedo del corpo, io. Che cos'è, guardi, secondo lei, se non è un lavoro? Comportamento, cos'è? No, è un comportamento che rispetto se è fatto, che lo Stato rispetta, che io come cittadina rispetto se è fatto come scelta individuale, ma non è un lavoro. D'accordo. La vendita, Allora, è come, le porto un esempio. Però alla fine della prestazione, mi scusi, c'è una dazione di denaro. Che cos'è quello? È nero? Che cos'è? Dazione, evasione fiscale? Non è né nero né evasione fiscale. È la degenerazione del corpo umano. Sì, ho capito. Allora, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, lo Stato come la deve considerare quella dazione di denaro? Le porto quest'altro esempio per farmi capire ancora meglio. È come se noi dicessimo, benissimo, abbiamo bisogno di soldi come state, tassiamo la roulette russa che porta al suicidio. Beh, ma scusi, ma che paragone è? È la stessa cosa. Io vendo il mio corpo, vendo la mia sessualità a una persona, che sia donna, che sia uomo, che sia transessuale, vende il proprio corpo, una persona va a giocare questo può portare alla sua morte. È lo stesso identico esempio. Ma, se noi accettiamo, è un paragone un po' azzardato, mi perdoni. No, non è azzardato, guardi, perché se noi accettiamo qualsiasi comportamento umano come comportamento che rientra nella normalità, lo presentiamo come modello e allora tolleriamo tutto. Ma non va bene. Allora fermatevi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico e Febal risponderà alla senatrice Manuela Baiodossi tra un attimo. Siamo qui allora, l'idea di tassare la prostituzione come chiede la transessuale Efe Balla, comprando anche pagine del Corriere della Sera, di Repubblica, di pubblicità. E con noi c'è la senatrice Emanuela Baiodossi. Senta Efe Balla, le chiedo un commento, insomma, ha sentito paragone, guardi, con la roulette russa? Molto semplicemente, allora, vi ricordate la pubblicità che c'era fino a un paio di mesi fa sul Rai 1, Rai 2, che faceva vedere i parasiti? I parasiti di pesce, i parassiti umani. Sì. Tutto il mio discorso è veramente cominciato anche di quella pubblicità lì, tantomeno che io volevo anche denunciare il Ministero dell'Interno perché avevano pubblicato una pubblicità del genere, perché c'è un gruppo di persone in Italia, che siamo 50, 100.000, non lo so quanto siamo sinceramente, che non possono pagare le tasse, e va benissimo. Io non voglio suicidarmi, non voglio morire, non voglio neanche paragonarmi con roulette rosso, ma comunque sia, Italia sta soffrendo, noi stiamo lavorando, i soldi che facciamo, almeno riguardo a me, sono reali. Dopo tutti i decreti che sono stati fatti in questi 13 mesi di governo Monti, non posso spendere questi soldi come vorrei. Vorrei aiutare un'Italia in cui almeno con i soldi che io potrei pagare, con un po' di riconoscimento, perché secondo me è arrivato il momento, riconoscimento di matrimoni gay, riconoscimento di transessuali, lasciamo stare veramente di essere delle persone. Ho capito, ma la senatrice dice che una macchinaria a un bambino che soffre in ospedale. Ma la senatrice dice che non si può riconoscere, dare una patente di moralità a un qualcosa che è immorale. La lettera che mi è arrivata, in questo momento lo tengo, giro alla senatrice, così risolve. Effettivamente lei, questo manda, è un problema. Senatrice, all'agenzia delle entrate, senatrice, che deve fare? Che deve fare Efebal con la lettera dell'agenzia delle entrate che dice che vuole vedere sui suoi conti che cosa circa? Che deve fare? Allora, l'agenzia delle entrate, non vorrei che i radioascoltatori pensassero che l'agenzia delle entrate entra nei conti correnti di tutti, è entrata nel conto corrente di probabilmente di questa signora solo ed esclusivamente perché c'era un giro di denaro altissimo. Ho capito, ma se non lo allora, può, se non lo può, cioè, quindi, se non lo può denunciare, come allora fa? No, ma il punto non è questo. Un lavoro deve avere una dignità, prescindendo dalla propria morale, una propria dignità. La vendita del corpo umano e l'utilizzo del corpo umano non è dignitoso. Cioè non è dignitosa secondo lo Stato, lo Stato non lo può riconoscere. È come fondamentale per la Costituzione, si rifà alla nostra Costituzione. Quindi io rispetto la signora e le dico, signora, lei ha ragione nel dire che vuole un lavoro, ma deve essere un lavoro. Capito, la Efebal, vendita per denaro del corpo umano non è un lavoro, non può essere riconosciuto come lavoro. Dov'è la sua dignità? Dov'è? Quando lei è sfruttata pesantissimamente. Un padre che fa sesso con suo bambino, un zio che si fa pedofilia con suo, non so, nipote. Ma infatti è condannato dalla legge. Sola, quello signora. È un crimine, però, Efebal. Quello è un reato. È un reato. Sono d'accordo con lei. Sicuramente non perdo le mie dignità con il lavoro che faccio. Purtroppo il mondo è così. Soprattutto adesso che c'è così tanto di crisi, le assicuro che ci sono veramente tante persone che rivolgono al mio lavoro per sopravvivere. Grazie a tanti politici che non hanno fatto i loro doveri. Grazie perché siamo arrivati a un punto in cui invece di crescita siamo in recessione. Sono un po' arrabbiato quando mi arrabbio comincio a balbettare. Però Efe il punto chiaro, Efe, è che la senatrice dice non si può dare una patente di lavoro a un qualcosa che non ha dignità. Secondo la senatrice, la vendita del proprio corpo non è dignitoso. Perché sfruttamento si crea dignità da solo. Uno potrebbe essere un dottore, invece di fare operazioni, fa operazioni truccate, ruba organi, fa delle fatture finte allo Stato, perde la sua dignità, perde la sua professione, alla fine va in galera. Senatrice, però, senatrice, mi scusi, sfruttamento di che cosa? È sfruttamento del corpo umano. Scusi, nella propria libertà non può usare, non può sfruttare il proprio corpo come ritiene più dignitoso. Aspetti. Allora, c'è una dimensione di libertà individuale. Sì. Se la signora o chiunque vuole avere relazioni sessuali plurime con persone, ma sa, questo sta nella dimensione individuale. Appunto. Cioè, un conto è la dimensione individuale, un conto invece è il riconoscimento di una professione dove c'è il peggior, come posso dire, è proprio l'offesa della dignità, per esempio, della donna. Io parlo anche come donna, la vendita, guardi che... E quindi lei non vuole che diventi... No, le associazioni delle prostitute, su questo, quando abbiamo discusso in Parlamento, noi abbiamo avuto dei confronti molto profondi con loro, e loro stesse volevano che si superasse, per esempio, la richiesta di poter effettuare gli esami dal punto di vista sanitario, che è riconosciuta, a tutti, ed è giustamente, guai se non fosse così, proprio per rispettare al massimo la dignità della persona umana. In questo modo la dignità della persona umana viene calpestata, viene offesa, viene... Poi la signora, io non entro nel merito della sua dice scelta, è una scelta personale, ma non vuole che ne diventi una possibilità concessa dallo Stato di riconoscere lo sfruttamento del proprio corpo come un lavoro come gli altri, e quindi è tassabile. E Efebal, ma quanto le contestano dall'Agenzia delle Entrate? Cioè, le hanno fatto una contestazione? Per ora sto aspettando la loro seconda lettera. Stanno indagando nei miei conti correnti, cominciando da 4 anni fa, fino a poco tempo fa, praticamente fino a quando è uscito quella pubblicità sul Corriere. Infatti, vede esporsi cosa serve. Vede ho già parlato cosa serve. Con i miei avvocati, ovviamente mi aspetta una guerra, ma io non voglio fare né guerra né una battaglia con nessuno. Cioè, io voglio, come tutte le persone in Italia, per aiutare, ripeto, a un bambino che magari ho bisogno di un macchinario, per magari aprire un canile, per magari aprire una scuola, vorrei che anche le altre, ovviamente spero che vogliono, che lavorano come me, pagare come una persona normale e dignitosa, se si può dire, pagare le tasse, perché ripeto, ogni persona crea la sua dignità, la sua personalità, il suo percorso di vita da sola. Non vuol dire che io vendo il mio corpo perché va bene così, perché io sono una transessuale, perché magari trovare un lavoro per me è molto più difficile, e magari nel un lavoro normale posso perdere la mia dignità molto di più, le assicuro. Io vado avanti con la mia vita così. Crede vorrei che come posso portare un altro esempio europei, venga riconosciuto questo lavoro. Pensi alla vendita degli organi umani, per esempio, che è una cosa che è condannata dalla legge. Cioè, allora, noi a questo però, punto senatrice, dovremmo non me lo fa tollerare come... tutto. Ma no, ma come... Ma che paragone me lo fa? Mi fa, quello è un crimine. Ma no, le faccio è un dei paragoni che sono al limite, mi rendo conto, so io che lo sto facendo. No, ma per far capire che se noi tolleriamo la prostituzione come lavoro, anzi la riconosciamo come lavoro, allora tutto. Nella stessa identica misura, siccome in alcuni stati l'asportazione di organi umani e la vendita di organi umani è ancora fatta, è fatta magari illegalmente, ma è fatta, allora noi lo dobbiamo tollerare, no, perché ci sono molte persone che aspettano di essere trapiantate. Questo paragone però è un po' forte. Io però fermiamoci qui, vi ringrazio senatrice Manuela Baio Dossi e Efebal transessuale, torneremo a trattare questo, la reinvitiamo, se volete rifacciamo un dibattito perché il tema è molto caldo, molto sentito. Vi ringrazio per il momento, mi devo fermare con tutta la redazione, da Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Carmelo Lauricella in regia. Seguiteci anche su Twitter, eh? Io sono Alino Milan, potete diventare miei followers e ci sentiamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.